Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. C'è una vittima per Ebola in Germania, un funzionario delle Nazioni Unite appena tornato dalla Liberia. Oggi a New York si riunisce il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. A Genova arriva Grillo, non sono qui per fare passerelle, dice, ma viene contestato da alcuni di coloro che spalano il fango, firmato da Chiamparino, lo stato di calamità per il Piemonte. Tagli di tasse e di spese, la legge di stabilità sarà di oltre 20 miliardi, dice il viceministro Morando, l'Italia si conferma intanto in deflazione. I dati INPS per il 2013, quasi la metà dei pensionati è sotto i 1000 euro al mese, calano i lavoratori del settore pubblico mentre le italiane tornano a lavorare come colf. Nuovi arresti per Expo, ai domiciliari l'ex manager di Padiglione Italia, Antonio Acerbo, avrebbe truccato le gare ottenendo in cambio consulenze per il figlio. 'Ndrangheta maxi operazione contro la cosca Bellocco, in manette finiscono anche un sindaco del PD e un consigliere comunale 5 Stelle, ma dal movimento dicono non è dei nostri. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Come sempre ci potete scrivere effettogiorno@radio24.it se volete o durante la trasmissione al 349-238-6666. Iniziamo da Ebola. Dalla Liberia, dove aveva contratto la malattia, era stato trasferito a Lipsia il 9 ottobre per essere curato. Le sue condizioni erano però state giudicate subito altamente critiche e nella notte l'uomo, 56 anni, dipendente delle Nazioni Unite di origini sudanesi, è morto. Era uno dei 3 pazienti ricoverati in Germania, uno già dimesso dopo 5 settimane di cure ad Amburgo, l'altro ancora ricoverato a Francoforte. Non ha più la febbre, invece, il paziente ricoverato a Bruxelles. Potrebbe quindi non trattarsi in questo caso di Ebola, anche se la certezza arriverà a fine giornata con i risultati dei test effettuati. A Dallas sono invece una 70 le persone sotto controllo entrate in contatto in ospedale con l'uomo deceduto la settimana scorsa. E se l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla dell'emergenza più grave e seria dei tempi moderni, all'aeroporto londinese di Heathrow sono partiti controlli sui passeggeri che arrivano dai paesi dell'Africa occidentale colpiti dall'epidemia. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E come vi abbiamo anche ampiamente raccontato, ci sono una serie di casi sospetti dei quali si è parlato anche ieri, poi rivelatisi falsi anche in Italia. Di questo e del rischio di questa psicosi da Ebola parleremo più avanti nella seconda parte della trasmissione con la persona che si occupa di tutto questo all'interno dell'Istituto Superiore di Sanità. Veniamo adesso alla situazione delle piogge e del maltempo che hanno colpito, come sapete, Liguria, Basso, Piemonte e provincia di Parma con alluvioni e allagamenti. Prima di tutto un punto generale con Alessandra Schepisi. Alessandra. Sì, buongiorno. Non solo Liguria, ma Piemonte, Emilia, Veneto. Il maltempo ha davvero imperversato in buona parte del nord Italia, con torrenti straripati, frane, allagamenti, trombe d'aria. In queste ore torna il sereno, ma si fa la conta dei danni. Sull'Emilia, ieri flagellata dalla pioggia, la situazione è migliorata, ma Parma si è svegliata ricoperta dal fango in molte aree a sud-ovest della città, dove ieri il torrente Baganza è tracimato. L'ospedale Piccole Figlie, il centro anziani, le strutture più colpite, centinaia ai primi piani, le cantine finite sott'acqua, decine di persone evacuate. A Corniglio è finito sott'acqua un prosciuttificio con 30.000 prosciutti e anche nel Piacentino la situazione è sì migliorata, ma resta alto l'allarme esondazioni in Valtrebbia. Situazione critica anche in Basso Piemonte, nell'Alessandrino, allagate Gavi e Novi, dove in 6 ore sono caduti 380 mm di pioggia, quasi la metà delle precipitazioni medie anno. E la situazione è comunque in miglioramento, il livello dei fiumi in netto calo, ma il presidente del Piemonte che Camparino annuncia comunque la richiesta dello stato di emergenza che fermerà oggi alle 16 in prefettura. Danni pesanti anche in Veneto per la grandine, numerose bombe d'acqua, allagato il centro storico di Belluno, colpiti anche gli stabilimenti balneari di Viareggio e numerosi quartieri di Firenze sott'acqua. Ma come si diceva, la situazione è in generale miglioramento, l'ondata di maltempo si va smorzando e oggi i temporali si andranno localizzando al centro, specie su Toscana, Umbria, Lazio e Marche, ma saranno meno intensi. E per ora è tutto. Grazie Alessandra Schepisi per questi aggiornamenti. Intanto Beppe Grillo è arrivato a Genova, è stato anche contestato. Ci colleghiamo con Andrea Ferro, col quale però innanzitutto facciamo un punto sulla situazione in città. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Da qualche minuto su Genova piove a sprazzi dopo una notte calda e asciutta, precipitazioni debolissime anche nelle prossime ore, nulla di preoccupante dicono i bollettini, anche se evidentemente negli ultimi 5 giorni a Genova le previsioni non sono mai state azzeccate. In città la strada verso la normalità è stata imboccata a fatica, le zone alluvionate sono ancora chiuse al traffico, per questo motivo ieri il prefetto ha disposto la sospensione dell'attività didattica nelle scuole. Il traffico dei bus non è ancora garantito al 100%, così la metropolitana chiusi i parchi. E come dicevi, oggi sulla scena ha fatto irruzione Beppe Grillo dopo che in un primo tempo sembrava annullato il sopralluogo dei 5 Stelle. Grillo è comparso in centro, nella zona del quadrilatero, protetto da un cordone di robusti militanti. Ha chiesto 2.000 euro per un'intervista, denaro da devolvere agli alluvionati. Ha promosso una raccolta di fondi, ha parlato con i commercianti, ha detto che la sua non era una passerella. Qualcuno gli ha dato incontro, altri lo hanno contestato. Vai a lavorare, vai a sparare, ascoltiamo. Vuoi che abbia problemi a sparare? Fabio, monta. Per avere qualche ascolto devi star nazzare a sparare. A quel punto Grillo è salito in scooter e di fatto ha dovuto allontanarsi. Sul fronte dei collegamenti regolari, autostrade e ferrovie, dopodomani si svolgeranno i funerali di Antonio Campanella, annegato nella piena del Bisagno esondato, sarà lutto cittadino. Da segnalare l'iniziativa dell'Ordine degli Ingegneri, 200 professionisti offrono gratuitamente la propria consulenza a commercianti e artigiani per le perizie. Per il momento da Genova è tutto, ti restituisco la linea. E grazie ad Andrea Ferro per questi aggiornamenti. Noi passiamo a parlare di politica economica. Oggi l'Ecofin, mentre siamo alla vigilia dell'approvazione della legge di stabilità, ieri nuovi annunci del Presidente del Consiglio sui contenuti, mentre la questione del TFR non dovrebbe entrare nella manovra. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Partiamo, Simone, allora proprio dai numeri resi noti dal Premier per una manovra che arriverà tra circa 24 ore sul tavolo del Consiglio dei Ministri, una legge di stabilità da 30 miliardi, con 16 miliardi di tagli e 18 miliardi di tasse in meno. Non ci dovrebbe essere nel provvedimento, come hai anticipato, l'operazione TFR in busta paga. Non sono previsti specifici interventi sulle pensioni, ha detto quindi il ministro del Lavoro Poletti, che ha confermato invece una riduzione dei contributi previdenziali per 3 anni per i nuovi assunti a tempo indeterminato. 6,5 miliardi sarebbero destinati all'abolizione della componente lavoro dall'IRAP, 0,5 miliardo di detrazioni per le famiglie. Ed ancora, sempre per i contenuti, ci sarà la proroga sia dell'eco bonus al 65% che del bonus del 50% per ristrutturazioni e mobili. Lo ha confermato questa mattina il ministro dei trasporti Lupi. Altro capitolo, quello degli 80 euro in busta paga, cambiano natura contabile, da bonus diventerà una detrazione fiscale, lo ha spiegato il responsabile economico del PD Taddei. Infine l'Ecofin avvia oggi le norme contro il segreto bancario, all'ordine del giorno quindi gli investimenti necessari per rilanciare la crescita e la lotta all'evasione fiscale internazionale attraverso un più efficace scambio automatico delle informazioni. È tutto, linea allo studio. Grazie a Vincenzo Miglietta. L'Istat intanto rivede a ribasso il dato sull'inflazione a settembre. Il mese scorso, infatti, l'indice dei prezzi al consumo al lordo dei tabacchi diminuisce dello 0,4% su base mensile e dello 0,2% su base annua. La stima provvisoria era per un meno 0,1%, ma oggi sono stati diffusi interessanti dati anche dall'INPS. Un paese povero che ricomincia a fare i lavori che relegava fino a pochi anni fa agli stranieri. Questa è l'Italia vista attraverso la previdenza. Stando al bilancio sociale dell'INPS, ad esempio, nel 2013 quasi la metà dei pensionati aveva un reddito pensionistico inferiore a 1.000 euro al mese. Oltre 2 milioni di pensionati, il 13%, invece addirittura inferiore ai 500 euro. Sono diminuiti nel 2013 anche i lavoratori pubblici, di 64.000 unità, quindi di oltre il 2%. E i dipendenti del settore privato sono scesi di 142.000 unità, dell'1%. Infine, una curiosità, nel 2013 sono diminuite le iscrizioni dei lavoratori domestici all'INPS, ma soprattutto hanno scontato un calo tra gli stranieri, meno 7,4, mentre è salito il numero di collaboratori domestici italiani con un più 2,8%. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per restare sull'economia, Luxottica questa mattina è stata sospesa a ribasso in Piazza Affari con un calo teorico di oltre il 5%, segno che il mercato continua a speculare sulle tensioni legate all'incertezza nella governance dell'azienda, nel governo dell'azienda. Torneremo a parlarne tra poco nell'appuntamento con i mercati. Ci sono nuovi arresti nelle inchieste su Expo. Abbiamo in diretta con noi la collega del Sole 24 Ore, Sara Monaci. No, mi dicono invece che è caduta la linea. E allora passiamo alla politica. Ci colleghiamo con Elisabetta Fiorito perché lo snodo in queste ore è il centrodestra, dopo l'intervista di ieri anche a Giovanni Minoli su Mix 24, nel quale il senatore D'Alì dice che torna in Forza Italia. I numeri al Senato per la maggioranza potrebbero traballare. Elisabetta, eccoci. Allora, c'è da dire una cosa, che un tempo facevano parte dello stesso partito, poi si sono separati, adesso imperversa, sembra la guerra dei roses, no? Potremmo così descrivere i rapporti tra Forza Italia e il nuovo centrodestra, dopo lo scouting di Silvio Berlusconi nelle file del partito di Alfano, un ministro degli interni che però denomina l'operazione azzurra operazione Lessi, in quanto in quattro mesi è passato a Forza Italia solo un senatore, appunto Antonio D'Alì, come avevi detto tu. Ironizza Alfano, eravamo abituati a ben altre performance da Berlusconi quando era impegnato in queste operazioni. Il nuovo centrodestra annuncia però gruppi unici con UDC e Popolari d'Italia, a breve anche un nuovo partito con un nuovo simbolo e nome, e questa è la strada che imboccherà il nuovo centrodestra. Da parte di Forza Italia, risponde Maria Rizzotti, non c'è nessuna operazione Lessi, invece di fare ironie animaliste l'onorevole Alfano si interroghi su se stesso e sulla sua sudditanza ad un governo che ha collezionato disastri economici e introdotto tasse su tasse. Per rispondere alla tua domanda, Simone, fino a questo momento solo quindi un senatore è passato a Forza Italia, quindi meno un voto al Senato per la maggioranza. Grazie ad Elisabetta Fiorito per questi aggiornamenti. Noi torniamo all'estero perché in apertura ne abbiamo parlando di Ebola, ma per venire alle vicende tra Siria ed Iraq. Innanzitutto la notizia è che 46 persone sono state giustiziate nelle ultime 48 ore dagli jihadisti dello Stato Islamico, dell'ISIS, a Mosul in Iraq. Questo è quello che riferiscono fonti della seconda città irachena conquistata dall'ISIS. A quanto sembra 12 vittime erano siriani accusati di spionaggio in favore della coalizione internazionale. È di pochi minuti fa la notizia che i curdi sarebbero riusciti a togliere la bandiera dell'ISIS che sventolava ormai a Kobane e a rimettere sostanzialmente la bandiera curda. Nel frattempo aerei dell'aviazione turca hanno bombardato la notte scorsa obiettivi non dell'ISIS ma del Partito dei Lavoratori del Kurdistan nel sud-est del paese. Per fare un punto e un'analisi ci colleghiamo con Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Alberto, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, la Turchia si è mossa, ma forse non come ci aspettavamo. Beh, è un biglietto da visita piuttosto impreoccupante quello che presenta oggi la Turchia alla riunione con Obama dei capi di Stato Maggiore a Washington. Cioè, invece di bombardare l'ISIL, come uno si aspetterebbe, cioè il califfato, i turchi hanno bombardato il PKK, cioè i curdi che stanno nella parte irachena, ma sono curdi turchi, cioè quelli che per 30 anni hanno condotto guerriglia e terrorismo contro la Turchia. Non ci dobbiamo meravigliare, perché quando il Parlamento di Ankara ha approvato la mozione per intervenire fuori dai confini con l'esercito, ha menzionato esplicitamente il PKK tra gli obiettivi, ma non ha mai neanche fatto cenno, neppure in un virgolettato, al califfato. Questo significa semplicemente una cosa, che la Turchia ha degli obiettivi completamente diversi da quelli della coalizione internazionale. L'obiettivo del presidente Erdogan è far fuori Bashar Assad, non il califfato. Grazie ad Alberto Negri, come sempre, per le sue analisi puntuali. Noi torniamo all'Italia con l'ospedale Careggi di Firenze. Oggi il primo intervento di fecondazione eterologa. Il primo intervento oggi al Policlinico Careggi, Firenze, la prima città italiana a ospitare le speranze di una coppia costretta a ricorrere a donatori. Le informazioni rilasciate dall'ospedale sono dettagliate ma solo tecniche. Il seme utilizzato è stato acquisito da un istituto europeo accreditato e autorizzato, in quantità limitata e comunque necessaria a garantire al massimo 3-4 trattamenti. Il donatore presenta caratteristiche fenotipiche compatibili con quelle della coppia, il che vuol dire che il patrimonio genetico, se tutto andrà bene, sarà simile tra tra genitori e figli. Nel frattempo al Careggi selezionano donatori, 5-6 mesi per qualificarli come idonei, e procede anche la selezione delle coppie, già oltre 1000 le richieste provenienti da tutte le regioni. I tempi di attesa per arrivare all'intervento sono di circa un anno. Proprio oggi la Toscana ha pubblicato le sue linee guida. La fecondazione eterologa sarà prevista nei livelli essenziali di assistenza per le donne sotto i 43 anni. Prevista inoltre la possibilità della diagnosi genetica preimpianto. Le stesse linee guida valgono anche per le altre regioni. I costi invece andranno dai 400 ai 600 euro, con l'eccezione della Lombardia, che ha scelto di far pagare tutta la procedura ai cittadini. Dai 1.500 ai 4.000 euro il prezzo dipenderà dalla tecnica di fecondazione adottata. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prima del traffico parliamo di musica. Si intitola Snob ed è il nuovo disco di Paolo Conte, esce oggi a 4 anni dall'ultimo lavoro. Pudore, artigianato, nostalgia. È parlare con un uomo d'altri tempi, parlare con Paolo Conte. Conte ha accompagnato l'uscita del suo nuovo Snob invitando i giornalisti nel suo astigiano, chiacchierando del disco in una cantina di Grande Barbera. Tropical, le parole bastavano da sole a descriverti il regno del sole, del frastuono blu e tropical. Tropical. Io sicuramente, come sai, non è che sono il cantore della provincia. Posso cercare di trovare nella provincia anche degli insegnamenti. Certe fantasie vengono dalla provincia, perché la provincia è più leggibile per uno che ne vuole scrivere. Ha più sagome, sia nel paesaggio che nei personaggi proprio. Paolo Conte confessa un po' di rimpianto per i giorni andati, ma dell'oggi parla con pudore. Un pudore che in musica, confessa, diventa quasi una tecnica. È la voglia dell'altrove, proprio l'ailleurs, che far capitare delle storie magari semplici in sé, proiettate per una specie di alibi, per una specie di pudore, proiettate in un altro mondo più colorato, più teatrale, che è la tecnica del pudore in realtà. Me ne sono servito e mi è difficile non servirmi ancora, quindi viene fuori ogni tanto. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Rocchetta Tanaro, Asti. Traffico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, via! Tana per papà, tana per la mamma seduta accanto a papà, tana per Giulia accanto a me, tana per Fido nel portabagagli e tana per il mio amico invisibile. Nissan Note, spazio versatile in movimento, l'abitabilità e il comfort da 11.900 euro con anticipo zero. Info su nissan.it. Tana libera tutti. Nissan, innovation that excites. Servizio assistenza gestionale. Oh, mi dico. Sera, ho uno studio professionale. Credo che il gestionale sia un po' lento. È lì? Dai nuova energia al tuo studio professionale con l'InfaStudio. Accessibilità, collaborazione e funzionalità condivise. Tutto a portata di mano in mobilità su tutti i dispositivi. Semplifica la gestione del tuo studio con Team System. www.teamsystem.com. Scegli Pantera col TH. Scegli l'ERP che compete nel mondo. Vi presenta Strade in diretta. In uscita da Roma per un incidente sul tratto urbano della 24 tra Ponte di Nona e la barriera di Roma Est, il traffico è bloccato al momento nelle due direzioni per l'eli soccorso. Ci spostiamo sull'autosole, ci sono 5 km di coda tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna a causa di un incidente risolto. Per lo stesso incidente si sono fermate code di 3 km anche tra Barberino di Mugello e Calenzano verso Firenze. Altre code per incidente sulla 10 Genova a Ventimiglia verso Ventimiglia tra Celle Ligure e al Bissona. Sulla 4 Milano-Brescia code di 2 km per lavori tra Grumello e Palazzolo in direzione di Brescia, per lavori code anche sul raccordo Salerno-Avellino tra Serino e Avellino in direzione della città. A Napoli code in tangenziale per un veicolo fermo tra Secondigliano e Corso Malta in direzione Pozzuoli. È tutto, torniamo tra mezz'ora. Promo 24. CarServer è la prima società a capitale interamente italiano a offrire una nuova idea di mobilità per grandi aziende, PMI e professionisti. Il noleggio a lungo termine che parte dal tuo territorio. Una mission rafforzata dall'alleanza con BCC Lease, società specializzata controllata dai Crea Banca Impresa, la banca corporate del credito cooperativo. CarServer ha ben 20 filiali a gestione diretta in tutta Italia e la manutenzione garantita dalle stesse case costruttrici. Una flotta di 25.000 veicoli e un parco vetture sostitutive di 2.000. CarServer dispone della più ampia scelta di marca e modelli. CarServer, soluzioni di noleggio a lungo termine. Trova la tua sede su www.carserver.it. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. A Genova arriva Grillo, non sono qui per fare passerelle, dice, ma viene contestato da alcuni dei cosiddetti angeli del fango, firmato da Chiamparino lo stato di calamità per il Piemonte. C'è una vittima per Ebola in Germania, un funzionario delle Nazioni Unite appena tornato dalla Liberia. 8 stati membri hanno messo a disposizione mezzi tecnici per l'operazione Triton di Frontex, quella naturalmente per l'immigrazione clandestina, ma il materiale non basta e il direttore dell'agenzia lancia una nuova richiesta sperando in una maggiore partecipazione. Tagli di tasse e di spese, la legge di stabilità sarà di oltre 20 miliardi, dice il vice ministro Morando. L'Italia si conferma in deflazione. Dati INPS per il 2013, quasi la metà dei pensionati è sotto i 1.000 euro al mese. Saluto Federico Cafiero De Rao, procuratore capo di Reggio Calabria. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. L'abbiamo chiamata per parlare di questa operazione che avete messo a segno questa mattina, un'operazione che ha portato a 26 fermi contro la cosca dei Bellocco e che ha portato a fermare anche un sindaco, un vice sindaco del Partito Democratico e un consigliere che si dice del Movimento 5 Stelle. Ci dà un po' la dimensione dell'operazione, procuratore, della rilevanza nell'ambito del controllo di quel territorio? L'operazione ha avuto ad oggetto due cosche, quella Bellocco Cimato da un lato e Pesce Pantano dall'altro, che hanno avuto una proiezione sul territorio di San Ferdinando che fondamentalmente rientra appunto negli interessi e nella azione dei predetti gruppi di 'Ndrangheta. Il fermo riguarda 27 persone, 26 in stato di custodia in carcere, la 27esima agli arresti domiciliari. La 27esima appunto è il sindaco di San Ferdinando, che essendo ultra settantenne è appunto stata posta agli arresti in casa. L'accusa è concorso esterno in associazione mafiosa per quanto riguarda il sindaco, di partecipazione invece per quanto riguarda il vice sindaco e il consigliere di minoranza cui lei faceva al quale faceva riferimento. Allora voglio chiarire agli ascoltatori, perché avranno nelle orecchie questo nome di San Ferdinando, se vi ricorderete ce ne siamo occupati, abbiamo anche ospitato il sindaco adesso arrestato quando c'è stata la protesta per l'arrivo delle armi chimiche a Gioia Tauro. In effetti San Ferdinando è il comune nel quale ricadono territorialmente gran parte delle banchine del porto di Gioia Tauro, e che vorrei capire che impatto aveva la cosca e che impatto avevano gli arresti che avete fatto sull'attività del porto, se c'era un qualche tipo di impatto. No, non ci sono, almeno nella nostra indagine, collegamenti per quanto riguarda l'attività svolta nel porto. L'operazione riguarda più propriamente estorsioni, armi, e per quanto riguarda, devo dire, il sindaco, il vice sindaco, il consigliere di minoranza, anche appalti e rilascio di licenze, autorizzazioni per negozi nella disponibilità della cosca. In particolare sull'appalto che ha riguardato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, vi è stata tutta un'attività investigativa che è conseguita all'incendio di un autocompattatore del marzo 2014, a seguito di quel fatto molto grave, proprio perché dimostrava la volontà delle cosche di bloccare il servizio. È stata sviluppata, come dicevo, un'attività investigativa molto ampia sui componenti delle cosche. Via via che si è andata avanti nell'indagine si è arrivata anche al coinvolgimento di persone che appunto fanno parte dell'amministrazione locale. E questo è un altro dato che tendo a sottolineare. Noi partiamo solitamente dalla struttura militare, diciamo, cioè quella che è operativa nell'andrangheta dei vari territori. Puntualmente poi ci troviamo a salire e individuare i loro riferimenti nell'ambito delle amministrazioni locali. Sembra quasi un dato costante che ogni qualvolta si intervenga sui reati di 'ndrangheta si finisca per arrivare ai riferimenti negli enti locali degli stessi. Queste sono le indagini che certo non riguardano tutti i comuni, ma quei 4-5 comuni che nell'ultimo anno sono stati oggetto delle nostre indagini hanno dimostrato che vi è un grosso condizionamento o addirittura un assorbimento. È quasi una costante questo condizionamento, procuratore. E questo è il grosso problema, e perciò a volte ho quasi sottolineato come sia importante dare una garanzia di libertà nel voto e nello stesso momento indirizzare la gente verso una maggiore fiducia verso lo Stato e le istituzioni. Il più delle volte il condizionamento finisce per essere l'altra faccia della medaglia della sfiducia. E quindi è questo che si vuole innanzitutto recuperare. Devo dire che nell'ultimo anno sono state numerose le operazioni compiute con queste finalità che hanno portato purtroppo anche ad individuare esponenti delle amministrazioni locali come persone colluse o addirittura intrane alle organizzazioni di 'ndrangheta. Grazie a Federico Cafiero De Rao, procuratore capo di Reggio Calabria, per essere stato con noi. Le auguro buona giornata e buon lavoro. E saluto Giuseppe Esposito, senatore del Nuovo Centrodestra e vicepresidente del COPASIR, il Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi di Sicurezza. Benvenuto Esposito. Buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori. Allora, l'abbiamo chiamata perché oggi il giornale pubblica una relazione, il riassunto di una relazione del capo dei servizi segreti del Marocco, Mohamed Yassine Mansouri, nel quale si parla di attentati progettati e sventati nei confronti contro la metropolitana di Milano, oltre che la basilica di Padova e San Petronio a Bologna. Vorrei sapere se ne sapevate qualcosa. Guardi, ogni giorno si ricevono allarmi e l'intelligenza di tutti i paesi, compresa quella italiana, li esamina. Nei minimi particolari vengono analizzati e stabiliscono anche la veridicità di questi. E uno degli allarmi ricevuti in questo un po' di tempo fa, perché la verità non è di questi giorni, è stato verificato come prima regola in tutte le sue componenti. E poi abbiamo condiviso questa verifica con i paesi alleati, compreso con il Marocco, dove c'è una buona collaborazione. Quindi ogni giorno, diceva, è un lavoro snervante per tutti quanti, per la nostra intelligence, perché quotidianamente ci sono nella stessa giornata più allarmi e vanno verificati nel silenzio più rigoroso da questo punto di vista. Cioè il silenzio aiuta a evitare possibili attacchi a dilagare. E poi quando i servizi funzionano solitamente non si sa niente, quando si sa vuol dire che non hanno funzionato bene. Però qua stiamo parlando di un fatto specifico, nel senso che in questa specifico. specifici. Sono tre fatti specifici dei quali il capo dei servizi segreti marocchini parla in modo molto concreto, cioè dice: li abbiamo sventati ma siamo stati ad un passo, quindi è, come dire, un po' diverso, no, dal ragionamento che diceva lei, che dice insomma noi di allarmi ne riceviamo tantissimi. Qua parla di allarmi molto concreti, io volevo capire. Io quando parlo di allarmi non parlo di allarmi del cittadino o del portavoce di al-Baghdadi, parlo di allarmi di altri servizi collegati a noi, alleati e amici, che raccontano storie, intercettazioni, possibili interpretazioni di fatti che vengono raccontati in alcuni ambienti. E quindi noi dobbiamo prendere questi allarmi sempre con grande attenzione. Quindi che sia sventato, io onestamente, pur sapendo che abbiamo un buon rapporto, ci ha raccontato ai nostri dirigenti, che abbiamo un buon rapporto con il Marocco da questo punto di vista, sembra che lo stesso ministro degli esteri si sia arrabbiato con il nostro Mansouri, il nostro direttore dei servizi, perché ha utilizzato, e mai è successo, in una conferenza stampa di dire solo un pezzo della notizia. Queste notizie non vanno raccontate, perché nel momento in cui raccontiamo in che modo abbiamo avuto fortuna o bravura sulle cellule terroristiche, facciamo scoprire all'altro in che modo abbiamo analizzato la questione. Il concetto è chiarissimo, e quindi il capo dei servizi, lei non lo può dire, però lo dico io, il capo dei servizi segreti marocchini in questo caso probabilmente doveva tacere. Quindi in sostanza lei ci conferma che questa allarme, insomma questa notizia vi era già arrivata in sostanza, sì, ai nostri servizi e quindi al COPASIR. Viviamo l'operatività, va chiarita questa cosa, noi viviamo dopo che è avvenuto come vigilanza, cioè nel senso la notizia arriva, i servizi fanno il loro lavoro, noi verifichiamo il loro lavoro post, non durante, certo. Perché noi non partecipiamo alle operazioni né partecipiamo, certo, alla vita delle operazioni, certo. Sappiamo con gli indicatori di allarme che ogni mese, sì, l'agenzia esterna ci comunica al COPASIR, ci dice com'è la tendenza e che cosa sta succedendo, sì, e sulla base di questo verifichiamo anche noi, sì, non l'operazione specifica, il complessivo. La ringrazio, grazie al senatore Giuseppe Esposito, vicepresidente, grazie, del COPASIR, per essere stato con noi. Le auguro buona giornata, ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo con la borsa. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore da Londra. Ciao, buongiorno Leonardo. Buongiorno a voi. Oggi c'è stato un voto in Gran Bretagna per il riconoscimento della Palestina. Israele si è arrabbiato, come era prevedibile. Sì, il voto è stato che ha un valore sostanzialmente esclusivamente simbolico, ma resta comunque molto significativo. Simbolico nel senso che la politica del governo inglese non cambierà. Questo Cameron, che peraltro non ha votato, si è astenuto, lo ha detto e lo ha ribadito. È un voto che ha voluto un esponente dell'opposizione. Su 650 deputati hanno votato in 286, 274 a favore e 12 contrari. Il voto cosa dice? Dice semplicemente che Westminster ritiene che se il governo dovesse riconoscere lo Stato palestinese insieme a quello di Israele, questo potrebbe dare un contributo alla sicurezza e al negoziato fra i due Stati. È un auspicio, anche se, ribadisco, molto significativo, sì, ma che non cambierà la politica del governo. Grazie a Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore da Londra. Buongiorno al professor Gianni Rezza, capo Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Professor Rezza, buongiorno. Buongiorno a voi. L'abbiamo chiamata per parlare di Ebola. La cronaca ci racconta di una vittima in Germania. Si tratta di un funzionario delle Nazioni Unite appena tornato dall'Africa. Con lei volevamo fare il punto sui rischi che effettivamente si corrono, perché su Ebola girano anche tante storie, insomma. Vorrei capire innanzitutto se ritenete inevitabile una diffusione anche in Europa, oppure la ritenete improbabile? No, assolutamente non è inevitabile. Io credo sia improbabile, nel senso che in Europa si è in grado di controllare l'infezione con una certa facilità. Certo, il problema qual è? Che se nel contesto africano l'infezione, l'epidemia dovesse continuare a perdurare per molto molto tempo e se si espandesse, si diffondesse ad altri paesi che attualmente non sono colpiti o che finora l'hanno contenuta bene, come la Nigeria o il Senegal, allora certamente la situazione, il quadro un po' muterebbe, perché noi abbiamo molti più scambi con altri paesi africani di quanti non ne abbiamo con quelli attualmente affetti, che ricordiamo sono Guinea, Sierra Leone e Liberia. Liberia, sì. Quindi per quanto il nostro contesto sia totalmente diverso da quello di certi paesi africani, il sistema avrebbe messo certamente sotto stress. Sotto stress, o quantomeno la prova. Professor Rezza, girano tante storie sul fatto che lo portano gli immigrati, quelli che arrivano col barcone e arrivano in Sicilia. Si è provato a smentire più volte questa cosa, riproviamo a farlo pure noi. Sì, no, cioè non è che possiamo del tutto escludere questa evenienza, è chiaro. Se una persona riesce ad arrivare in tempi brevi sulle coste del Mediterraneo, magari fa in tempo a imbarcarsi, a ammalarsi, ma è molto improbabile. Perché è improbabile? Perché il tempo di incubazione è di poco superiore alla settimana. Quindi già, ecco, molte delle persone che arrivano da noi via mare vengono magari dal Corno d'Africa, dall'Africa settentrionale, dal Medio Oriente, quindi già riduciamo il numero delle persone che viaggiano dalle zone attualmente affette. Inoltre dobbiamo considerare che proprio perché il tempo di incubazione è relativamente breve, relativamente rispetto al viaggio, che nella maggior parte dei casi è piuttosto lungo e faticoso. Quindi la probabilità che si arrivi via mare è certamente più bassa rispetto a quella che si arrivi via aereo. Quindi anche se non possiamo escludere nulla a priori, mi sembra altamente improbabile. Infine, più che altro perché abbiamo poco tempo, perché altrimenti continueremmo il livello di mortalità di questo virus, soprattutto in un ambiente controllato e medicalmente avanzato, per così dire, come quello europeo, professore? È difficile dirlo, perché nel contesto africano vediamo le statistiche sottostimano la letalità, cioè il numero di morti sul numero di malati, la danno intorno al 50%, ma di fatto si è visto che probabilmente la letalità in questa epidemia è di circa il 70%, quindi molto elevato. In un contesto diverso, come quello di un paese avanzato, alcune terapie di supporto verrebbero certamente fatte e probabilmente meglio, non so, si potrebbe intubare il malato, reidratare anche per via infusionale endovenosa più di quanto non si possa fare in paesi in cui gli ospedali sono quello che sono e i posti letto sono totalmente occupati da malati di Ebola. Un conto è avere un infermiero dedicato per ogni malato, un conto è avere un'infermiera o un medico per 50 malati, quindi le condizioni sono totalmente diverse, però Ebola è comunque un virus aggressivo, quindi anche da noi non sarebbe una passeggiata e lo testimoniano i casi che si sono verificati e sono stati trattati in Europa o negli Stati Uniti. Vediamo che la letalità magari è un po' più bassa, però è sempre elevata. E bisogna vedere anche se questi farmaci sperimentali tipo ZMapp, che potrebbero arrivare, ma la cui disponibilità è limitata, possono ulteriormente abbassare questo tasso di letalità. Però la miglior cura, diciamo, è non prenderlo. È il controllo e la prevenzione dell'infezione, e soprattutto là dove si sta espandendo. Grazie a Gianni Rezza, capo dipartimento malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Ed è tutto per Effetto Giorno, un ringraziamento a Fabio Cantadori in regia, Laura Faggini in assistenza e redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre, Effetto Giorno @radio24.it. Per scriverci, la trasmissione torna domani alle 13, noi ci risentiamo tra un attimo con GR24.